Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Una buona domenica a tutti. Si chiama La luce oltre il buio, è il libro testimonianza edito da PM in cui Giacomo Celentano, figlio di Adriano e Claudia Mori, racconta la lunga esperienza di depressione ed il percorso di guarigione raggiunta grazie soprattutto alla fede. Questo quello che ci ha raccontato. È successo all'età di 23 anni che io, così di punto in bianco, senza una motivazione così specifica, sono stato colpito da una riduzione drastica della mia capacità toracica e per cui ho cominciato a respirare male, non potevo più fare il mio lavoro, cioè il lavoro di cantautore. Diciamo, in poco tempo realizzai che la mia vita era cambiata. Solo dopo qualche anno, ho capito che questo sintomo era legato all'ansia. Praticamente la mia patologia era l'ansia. Lei ha cominciato a vedere dei medici, ma è riuscito ad uscirne anche e soprattutto grazie alla fede, a un lungo percorso. Sì, quando mi sono ammalato mi ero allontanato un po' dalla fede, no? Dalla chiesa, dai sacramenti. Ecco, questa mia malattia è stato un mezzo per riavvicinarmi a Dio, ai sacramenti, alla vita di fede. Io poi ho capito sempre a posteriori, il Signore ha permesso questa malattia affinché io mi riavvicinassi a Lui. Come è avvenuto questo riavvicinamento? Ma è avvenuto in maniera graduale, cioè io ho cominciato a fare delle letture di spirituali, a frequentare dei sacerdoti, e perché si era accesa dentro di me una domanda, che era quella che io volevo capire qual era il progetto di Dio nella mia vita. In questi 7 anni, che io poi chiamo i miei 7 anni bui, perché sono stati 7 anni così molto difficili di smarrimento, ho fatto delle prove, no? Ho fatto un'esperienza in un monastero all'abbazia di Chiaravalle fuori Milano, ho fatto praticamente 40 giorni proprio da monaco, però io in questa esperienza abbastanza così dura ho capito che la mia chiamata non era una chiamata alla vita consacrata, ma era una chiamata alla vita familiare. Infatti poi, dopo aver fatto questa esperienza a Chiaravalle, io ho conosciuto Katia, la mia futura moglie, con cui è nata una bella amicizia, e poi in seguito è nato proprio l'amore. La sua famiglia d'origine come l'ha accompagnata in questo percorso? Ma mi ha accompagnato sicuramente in maniera molto discreta. I miei genitori, in un primo momento, quando io mi sono ammalato, mi hanno portato a fare tutte le visite, diciamo, specialistiche del caso, dove risultava che io fisicamente non avevo nulla. C'era ancora questo contrasto tra il fatto che io fisicamente non avessi nulla, però di fatto ero malato. Questa cosa creava ancora più isolamento tra me e il mondo circostante. Però io non mi diedi per vinto mai, cioè io, nonostante questa cosa, continuavo a cercare, e soprattutto nella fede, una risposta che poi è arrivata, diciamo, no? È per questo che poi, per chiudere, ha deciso di scrivere questo libro, per dare una testimonianza? Penso tuttora che possa essere d'aiuto a tutte quelle persone che come me passano o hanno passato un periodo difficile di buio, con il messaggio che dal buio si può uscire grazie alla fede in Cristo. Ora c'è Don Willy Volonté. Papa Benedetto insiste molto in quest'anno dedicato alla fede sul rapporto fede-ragione, come di realtà che non si contrappongono ma si completano. La fede che ricerca la sua intellegibilità e l'intelligenza che cerca la fede per saziare quel bisogno di infinito di cui è costituita. Non a caso la fede cristiana ha sempre definito l'uomo come creato d'immagine e somiglianza di Dio, quindi tentare di eliminare il dialogo tra fede e ragione è uno dei frutti amari del cosiddetto pensiero debole. Non possono non colpire le affermazioni di alcuni tra i più grandi scienziati del secolo scorso. Albert Einstein, il creatore della teoria della relatività, scrive: «Le nostre prospettive scientifiche sono ormai agli antipodi tra di loro. Tu ritieni che Dio giochi a dadi con il mondo, io credo invece che tutto obbedisca a una legge in un mondo di realtà obiettive che cerco di cogliere per via furiosamente speculativa». E ancora: «La più bella emozione che possiamo provare è il senso del mistero. Sta qui il seme della grande arte della vera scienza. L'uomo per il quale non è più familiare il sentimento del mistero, che ha perso la capacità di meravigliarsi davanti alla creazione, è come un uomo morto o almeno cieco». E di rincalzo James Maxwell, che ha elaborato la prima grande sintesi teorica nella fisica dopo quella di Newton: «Dio onnipotente, che hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza e ne hai fatto un'anima vivente perché egli potesse cercarti e avere potere sulle tue creature, insegnaci a studiare l'opera delle tue mani in modo che possiamo sottomettere la terra a nostro uso e rafforzare la nostra ragione al tuo servizio». Ci sono tanti modi per vivere l'avvento, anche quello di riconoscere che Dio è più grande dei nostri programmi.